microcosmo, dove vivo tutto a posto e niente in ordine. Mi ci ritrovo, mi ci riconosco, non taggarmi, non ci riesci. Io di foto non ne posto, paparazzami se vuoi portarmi a casa ad ogni costo. Tutto è troppo losco, quello che vedete è vostro. Mentre giro voi dormite, quando dormo sembro morto, non ricordo. Chi di voi può rinfacciarmi un torto? Disinfestatemi come l'erbaccia dentro all'orto. Entro in scena quando tutti quanti se ne vanno. Esco dalla scena quando gli altri arriveranno. Schiumo dalla bocca mentre parlo, sono calmo. Ciò che ho fatto fino ad ora non sta scritto sul mio palmo. Mi son perso mentre mi cercavo e adesso. Mi son perso mentre mi cercavo e adesso. Guarda come sono messo, tanto proseguo lo stesso. Già l'ho detto, stanne certo, non lo cerco un compromesso. Col sorriso ormai stampato in faccia tipo Joker. Dopo aver rappato con la faccia dentro il water, sulla traccia con la maglia di Lord Dark Fener, hai capito quindi qual è il lato che mi appartiene. Io sorfo l'onda, da tempo è gonfia, tutto verde attorno al tubo che mi circonda. Lo vedo che mi guardi con misericordia, stantio, mentre io profumo di vittoria come Apocalypse Now. Col napalm sai, ho bruciato tutti quanti i miei guai, senza padrone, come un Robin Samurai nel polverone. Vedo bene come non mai, già sai, la tecnica non mi manca. Dove sono nato è l'unica terra santa, in quale mi radici ma col suolo non cambia. Da chi mi circonda devo mettermi in guardia, tutti quanti parlano di cosa non so. Vedo il mio futuro dentro al bosco come duro, troppo maturo il mio pensiero stai sicuro. Forse a volte nero come la birra di Arturo, duro a morire vivo in fondo il mio sogno. Per la solitudine ero il migliore compagno, investo in bontà e garantito il mio guadagno. Stare bene con me stesso è quello di cui ho bisogno. Mi son perso mentre mi cercavo e adesso. Mi son perso mentre mi cercavo e adesso. Guarda come sono messo, tanto proseguo lo stesso. Già l'ho detto, stanne certo, non lo cerco un compromesso. Senza la televisione, in una bolla di sapone. Meravigliati quando descrivo la mia situazione. Fermo, coi bagagli aspetti il treno alla stazione. Sul convoglio io ci passo in crescente accelerazione. È un vero peccato, non ci sei in versione. Ti disperi, non lo fare, pronta qua la soluzione. Perso il treno, poi ripasso un'altra volta, sei campione. La seconda poi lo prenderai in piena deflagrazione. Tornerà per investirti, perché non hai colto l'attimo. Non bastano quattro mura perché aspetti solo l'attico. Si vince coi polmoni, non c'è più l'assetto tattico. Vuoi premere stop, io non ti biasimo, dai ammettilo.